Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e bentornate alla nostra 225esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Allora, vi ricordiamo che avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di SMS al nostro numero di cellulare che è il 338-4146-682. Oppure potete scrivere una mail al nostro indirizzo che rimane sempre contatti@clrbp.it oppure scriverci al CLR presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B Roma. Allora, stasera ai microfoni siamo io, Annalisa, poi c'è Lucilla, Manuela, Rosina e salutiamo Caterina che anche se non è qui ha partecipato attivamente alla preparazione di questa trasmissione che è la prima dopo la pausa estiva. Ci siamo riposate, abbiamo viaggiato, speriamo altrettanto di voi, ci siamo divertite, siamo tornate come nuove, delle persone diverse si potrebbe dire. Peccato che invece la situazione che abbiamo trovato è sempre quella di prima. Lo sfascio continua e noi pure ci siamo abbastanza già rotte. Probabilmente avrete tutte seguito la polemica estiva su escort e politica, l'ignobile intreccio tra sesso e potere, il conseguente dibattito che ancora si trascina e non ci lascia tregua. In tutto questo si è innestato il dibattito avviato da Nadia Urbinati sulla Repubblica, che si è interrogata sul silenzio delle donne italiane in merito alla vicenda e più in generale sulla condizione in cui si trovano a vivere. Molti sono stati gli interventi a seguire, primo fra tutti quello di Concita De Gregorio, che è la direttora dell'unità, di cui stasera vi daremo notizia, ma naturalmente non potevamo esimerci dal dire la nostra, quindi ecco la nostra provocazione. Siamo sicure che le donne stiano in silenzio e non piuttosto che ci sia un silenzio generalizzato e voluto sulla parola delle donne? Cara Concita, neanche tu ci citi. Ciciti, esatto, aspetta non ti si sente Rosina Bella adesso si sente? Esatto, eccola là. Oh, è la prima trasmissione che io faccio da un sacco di tempo, quindi le papere aspettate. Le papere insieme alle scimmiette come cita, esatto. Cara Concita neanche tu ci citi, quindi neanche tu ci citi. Parliamo del silenzio sulle donne, però a questo punto mentre noi stiamo zitte perché raduniamo, esatto, riuniamo le idee, tu mandi forze. Un bel pezzo musicale così sì. Ci sistemiamo un po'. Partiamo con Wicked di Darren Brahms. Thank you. Allora riprendiamo, anche io vi saluto, sono Lucilla e prima di passare alla lettura di alcuni stralci dell'articolo della Urbinati, perché altrimenti poi non capiamo di che parliamo, volevamo segnalarvi a tutte che abbiamo in studio con noi un ospite stasera, una donna che fa un certo tipo di attività politica che poi intervisteremo per voi e anche per noi stesse, e vi lasciamo la suspense, dovete seguirci fino in fondo per sapere chi è, va bene? E allora passiamo adesso a leggervi il pezzo, alcuni stralci dell'articolo di Nadia Urbinati, l'abbiamo accorciato, ma non abbiamo stravolto il significato, e questo ovviamente per ragioni radiofoniche. Questo articolo è stato pubblicato su Repubblica il 30 giugno 2009, quindi se andate poi su internet nell'archivio di Repubblica lo troverete e lo potrete leggere per intero. Il titolo è «L'Italia, il potere e il silenzio delle donne». Dice l'Urbinati: «Non è facile essere donne in questo tempo di stravolgimento dei valori e dei costumi, di smarrimento del senso comune. Non è facile trascendere ciò che ci sta intorno e ci offende. Vicende di giovani donne che si lasciano abbagliare da vecchi e meno vecchi uomini potenti, che accettano di farsi rimpicciolire fingendosi bimbe di un papi. Non c'è glamour in questa società dei diminutivi. Le ragazze che sono veline, meteorine e ricevono farfalline e tartarughine, un linguaggio che le rimpicciolisce trasformando il serraglio in un parco ludico infantile». Ora leggerò questo nome, scusate se lo pronuncio male: Mary Wollstonecraft, la coraggiosa e giovane iniziatrice del femminismo moderno, aveva parole durissime contro una società che preparava le ragazze ad un futuro che era perfettamente funzionale alla società patriarcale, educate ad essere cacotte, appetibili mentre erano giovani, per poi finire a procreare figli e servire mariti. Pensava, lei illuminista, che tutto cominciasse con l'educazione, che la ragione dell'assoggettamento delle donne fosse da cercare nell'ignoranza e nell'esclusione dalla vita della città. Mary era durissima e severa con le donne del suo tempo, perché irremissive e docili, concentrate a sviluppare quelle competenze salottiere che potevano spianare la strada verso un buon matrimonio. Per questo si facevano complici del serraglio nel quale vivevano, oggetto di attenzioni triviali da parte di uomini che consideravano tali attenzioni un tributo virile da pagare al gentil sesso, quando in realtà essi lo insultavano affermando la propria superiorità. La bella Mary si rivoltò contro quel mondo goldoniano di serve furbette e padroni protervi e rivendicò l'inclusione delle donne nelle scuole e nella vita pubblica, il pubblico invece che l'esilio forzato nel privato. E dice ancora l'Urbinati: questa è stata dal Settecento la strada percorsa da chi ha difeso la dignità di uomini e donne. E ancora: da qui le donne sono partite per rivendicare un'altra fetta di diritto e di potere, quella che avrebbe dovuto sollevare finalmente il velo del privato, per mostrare le nicchie di violenza e sopruso che ancora resistevano, non viste, non dette e non considerate. La violenza domestica in primo luogo, e aggiungiamo noi, quella non è mai cambiata, è tradizione, mettiamola così, ma anche l'abitudine, riprende Urbinati, inveterata a leggere come naturalità ciò che invece era ed è sempre stato frutto di cultura e società, dominio e dipendenza. E continua la Urbinati, sono Manuela. La stagione dei diritti ha rovesciato un modo di leggere i rapporti umani e tra i generi, e continua, ha svelato e decostruito l'interpretazione consolidata di ciò che è sociale e di ciò che è naturale, ridefinendo il genere e il ruolo dei e tra i sessi. Questa è stata la grande lezione delle battaglie per i diritti civili combattute dietro lo slogan «Il privato è politico, il privato è pubblico». Decine di anni dopo quelle battaglie per i diritti, le società moderne, quella italiana in maniera abnorme, si trovano nella condizione paradossale di veder rovesciata quella logica, per cui tutto il pubblico è ora privato e il privato ha occupato il pubblico, con le conseguenze aberranti per cui da un lato vi è una legge che mette la privacy sull'altare e dall'altro vi è una vita politica che è il palcoscenico sul quale si recita soltanto una parte, quella privata. E se questa parte, la privata, si mescola con questioni politiche o di Stato e i cittadini vogliono sapere e i giornali cercano di svelare, allora si evoca la sacralità della privacy sulla quale si pretende di inchiodare l'informazione, facendola passare come un'intrusione invece che come un bene pubblico. Il paradosso, continua sempre la Urbinati, è che chi per primo ha cancellato ogni distinzione tra pubblico e privato si fa ora rivendicatore di quella separazione. È evidente il gioco delle parti che si cela dietro questa, che è come la magia della stanza degli specchi, confondere tutti i piani per poter usare a piacere l'uno e l'altro a secondo dell'interesse. Allora le ragioni di Stato sono l'arma per nascondere questioni che con lo Stato nulla hanno a che fare. Le ragioni del privato servono a nascondere ciò che è di interesse pubblico e di cui i cittadini hanno diritto di sapere. In gioco è stata l'unanime e giusta diagnosi, cioè la legittimità e la credibilità delle nostre istituzioni, non solo di fronte a noi cittadini italiani, ma anche presso i paesi stranieri. L'Italia è una miniatura di se stessa, lo specchio di quel linguaggio di diminutivi che le giovani ragazze si lasciano appioppare con sorprendente indifferenza da profittatori di ogni età. La loro presenza sulla scena sociale è tutta privatissima, proprio come vogliono che sia da tempi immemorabili gli uomini, a male più che a bene usi. Le donne sono sempre lo specchio della società, il segno più eloquente della condizione nella quale versa il loro paese. Quando muoiono per le violenze perpetrate da un potere tirannico o quando viaggiano con voli prepagati per ritirare un cotillon o a forma di farfalla, nelle loro storie è riflessa la storia tragica o patetica delle loro case e delle loro città. E come nel caso delle donne vittime di violenza del tiranno, anche nell'altro è urgente che si levino voci di critica, di sconcerto, di denuncia, voci di donne. Questo silenzio ammorba l'aria, conclude l'Urbinati. E adesso passiamo a un nuovo pezzo musicale che ci dirà Annalisa e poi commentiamo insieme. Sì, allora adesso c'è Bring Me Water di Melissa Etheridge. So weak, but all in love is fair. I turn you the cheek, and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room. But tonight, while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Will this night be through? When I hear the breaking glass, I only feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity of that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? E allora rieccoci in onda per fare alcune considerazioni. Vi abbiamo letto questo articolo appunto perché la querela a cui accennavamo poco fa si è scatenata proprio da qui. E molte giornaliste, intellettuali, femministe storiche e anche molte altre donne hanno espresso delle opinioni più o meno condivisibili sul silenzio presunto e attuale delle donne. Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo dire, riconosciamo che un silenzio c'è, ma noi crediamo che sia un silenzio da parte della stampa. Infatti è sotto gli occhi di tutte e di tutti il fermento che attraversa la realtà di donne che si muovono nel campo della politica, della cultura e del sociale. Sono movimenti e associazioni organizzate che operano sul territorio nazionale da molti anni, spesso sulle proprie forze e senza alcun riconoscimento. Sono ad esempio le donne in rete che continuano a dibattere tra di loro, che organizzano iniziative che agiscono a livello territoriale, presenti con manifestazioni, incontri, dibattiti, ad esempio la FLAT, manifestazione nazionale contro la violenza, presidi davanti ai tribunali, volantinaggi, staffette, sit-in, incontri di piazza 50 e 50, raccolte di firme, staffette contro la violenza, iniziative popolari, la salvaguardia dei consultori, tutta una serie di attività che spesso non vengono fuori, sono tenute più o meno celate. Non vengono proprio menzionate. Non vengono menzionate. Ci sono anche donne che prestano la propria opera pressoché gratuita, ad esempio nei centri antiviolenza, sostituendo l'assenza e il silenzio, questo sì lo dobbiamo dire, delle istituzioni. Poi ci sono le donne contro la guerra e non ultimo il significativo movimento delle donne migranti, che è una esperienza condivisa fra le native e non. E vabbè, non vogliamo naturalmente parlare di noi, che anche del lesbismo abbiamo fatto, del lesbismo e della politica lesbica, abbiamo fatto non soltanto una questione di cuore, se ci concedete questa piccola battuta, anche perché appunto per noi il lesbismo è una questione politica. Concita De Gregorio, nel suo fondo sull'unità del 12 agosto del 2009, che vi invitiamo a leggere, qui per questioni di tempo ovviamente non abbiamo potuto darvene lettura, Concita esorta le donne e le femministe a rompere il silenzio e a parlare su questi fatti che sono accaduti, sostenendo che in tutto il resto del mondo le donne sono in piazza e lo fanno, parlano di queste cose che succedono nelle loro vite. Concita è una giornalista da molti anni, attualmente appunto dirige l'unità, e noi crediamo che lei conosca molto bene le regole dei media, e quindi vorremmo ricordare comunque che in Italia i media appartengono più o meno ad un unico soggetto e che del conflitto di interesse i partiti, che sono composti prevalentemente da maschi, o si sono disinteressati oppure se ne sono interessati pro domo sua, quindi c'è stata anche una non volontà relativa all'informazione di dare corso e di dare un certo una certa risonanza agli eventi che sono accaduti in questi mesi, nei mesi passati. A Concita, che anche rispettiamo, in particolare vogliamo però rimettere la responsabilità di guardare al movimento con uno sguardo, come dire, vagamente appannato. Da che cosa sia appannato forse ce lo dovrebbe dire lei. Del resto riteniamo che non sia più il tempo della piazza, quel tipo di piazza che lei dice, la piazza che si trova in altre nazioni. Non è il tempo della piazza, né tantomeno della conta di piazza, ammesso che quest'ultima sia mai stata una pratica femminista, quella del contarsi nelle piazze. E del resto questo tipo di fallimento, sia della conta che della piazza, non attraversa purtroppo soltanto il movimento delle donne, ma attraversa più o meno tutti gli altri movimenti che si muovono e agiscono a livello sociale. Il patriarcato che deriva da questa situazione ha saputo rimaneggiare tutto quello che era propositivo e antagonista, svuotandolo, ha precarizzato le vite di tutte e di tutti, questo lo diciamo da sempre, attribuendo al dissenso l'etichetta di pericolosità, e quindi ci ha costretti ad una politica di resistenza e di re-esistenza, se vogliamo. E il sessismo è stato e continua ad essere il substrato fondativo di questa situazione. Ci sono stati anche altri interventi, ad esempio quelli di Pomeranzi e di Domenichiani, sul sesso, il potere, sulle libertà femminili, ma anche qui purtroppo il tempo è tiranno e abbiamo anche altre cose da dirvi, per cui per queste considerazioni fatte da queste due compagne vi rimandiamo magari alla lettura degli articoli che sono usciti sul Manifesto il 23 e il 25 agosto 2009, li troverete molto significativi. Lucilla, forse vuoi aggiungere qualcosa? Ho visto che prendevi... No, io volevo soltanto dire che va bene tutto, insomma, la cosa importante è però ricordarci sempre che anche in questo caso noi donne siamo attirate e irretite dalla cultura dominante, perché ancora una volta sembra che ci debba essere qualcuna che fa da paladina, non si sa bene a chi altra, e come se ci scordassimo i meccanismi del potere tali, poi ne parleremo dopo, perché la persona che è qui, che è accanto a noi e che per ora tace, la donna mascherata appunto, vi dirà di un'iniziativa molto importante. Ma una per tutte, io voglio ricordarvi le pubblicità, quanto siano scandalose, quanto siano svilenti della persona, delle donne, quindi della persona, e quanto noi ce ne andiamo in giro per il mondo dimenticandoci i cartelloni pubblicitari che veramente ci offendono. Allora, qualcosa vorrà dire, chiediamoci anche queste cose, quindi chiediamoci quanto la cultura veramente dominante non ci abbia preso negli ingranaggi e ci abbia anche a noi un pochino appannato la vista. Adesso un altro brano musicale, vai! Sì. Una bella canzone d'amore. Non so se quanto ci azzecca pure. Ci azzecca moltissimo. La spazzatura. Una canzone d'amore meravigliosa, la spazzatura. La spazzatura. Momo. Momo. Spazzatura, mi hanno detto che tocca a me, forse perché sono di Napoli, spero. Chissà perché tocca proprio a te dopo la spazzatura. No, vorrei capirlo, sta cosa. Comunque, vabbè. Allora, vi ricordiamo che noi siamo sempre qui, siamo il CLR, coordinamento Lesbiche Romane, siamo alla nostra 225esima trasmissione su Radio Onda Rossa, sugli 87-900 MHz. Vi invitiamo a intervenire, se vi va, in diretta ancora per un po'. Ancora una mezz'oretta, no? Quanto abbiamo ancora? Sì, ancora fino a 20 minuti, mezz'ora. Quindi se volete intervenire in radio con un trillino oppure per dirci qualcosa, siamo allo 06 49 17 50, oppure se vi va di lasciarci un SMS con le vostre impressioni 338 41 46 682. E per le meno sintetiche potete scriverci una bella mail lunga al contatti@clrbp.it. Oh, le prossime iniziative poi le diremo, no? No, ricorda anche come si possono ascoltare in diretta e come fare per ascoltarci, sì, in diretta. Allora, per ascoltarci in diretta potete o andare sul sito della radio, che vi ricordo che è www.ondarossa.info, e anche lì c'è il tasto da cliccare con in diretta, e quindi vi ricordate il martedì di cliccare da lì. Oppure se andate sul nostro sito c'è un link, un collegamento al sito di Onda Rossa, e potete ascoltarci su internet in diretta. Detto questo, riprendiamo un attimo facendo ancora qualche piccola considerazione. Tu questo pezzo non ce l'avevi in scaletta, ma noi ti vogliamo sorprendere, lo sai. E questo, te lo insinuiamo. Soprattutto è stata Caterina a fare questa riflessione in più e ce l'ha spedita all'ultimo momento, e noi ovviamente l'abbiamo letta, l'abbiamo condivisa, e non ci pare il vero di poterla leggere. Quindi noi quello che vogliamo dire, dice Caterina, chiaramente a noi interessa approfondire l'argomento della presenza e della parola delle donne, la presenza sulla scena politica e la parola delle donne, sempre rispetto a loro stesse, cioè a noi stesse. Quindi. Quindi prima di porre qualche domanda alla nostra ospite, che a voi vi sarà aumentata o no la curiosità di sapere chi è, ci piace fare alcune ulteriori precisazioni sul nostro punto di vista, e quindi vorremmo parlare della relazione che c'è tra la politica, la stampa e le donne, andando a toccare vari aspetti del problema. Ma c'è secondo noi un aspetto che merita di essere evidenziato, e quindi, che sarebbe questo secondo Caterina, ma anche secondo noi, è lo scambio di opinioni diverse esternato da alcune donne, ha tralasciato un aspetto che esiste da tempo e che è invece il silenzio sulle donne. L'abbiamo detto e ridetto, lo ripetiamo. Ad esempio, l'ultima manifestazione sulla libertà di stampa è stata sicuramente significativa, però proprio come donne noi continuiamo a ribadire il concetto che questa stampa ha da sempre dimenticato volutamente di riportare quello che le donne veramente dicono e veramente fanno. Ed è molto chiaro l'oscuramento che permea sulla politica delle donne, cioè l'oscuramento della stampa ovviamente. E qui vi leggiamo un piccolissimo stralcio di Concita. Allora, lei dice, le grandi personalità si sono ritirate, cioè fa una critica praticamente, diciamo, alle femministe storiche, si sono ritirate a scrivere le memorie degli anni d'oro, quasi a rivendicare un'autorità e insieme una estraneità da questo tempo. Io l'avevo detto, io l'avevo scritto. Personalismi, una contro l'altra, non c'è più la capacità di mettere in comune le esperienze, tessere una trama, rinunciare a qualcosa di proprio per l'agire collettivo. E noi la dobbiamo smentire, per questa cosa vedrete che insomma non è proprio così, non la pensiamo così, almeno da un nostro punto di vista, dal nostro punto di vista del fare politica. Quello che dà fastidio, continua Concita, poi, è questo continuo lamento, solo lamento. Tutti che chiedono, rivendicano, protestano e si lagnano. Tutti, cioè vorrei dire tutti chi, vabbè, tutti che pongono problemi e nessuno che offra soluzioni. Lamentarsi è facile e non costa nulla. Invece proporre una soluzione significa assumere una responsabilità, pagare il prezzo di una decisione. La dimensione pubblica, quella di chi si attrezza ad unire le forze e costruire gli strumenti per cambiare le cose insieme, è svanita. Bisogna ripartire da capo, dalle cose essenziali. E qui dice Concita, lanciare un appello, per esempio, alcune donne si preparano a farlo, lanciare appelli non è un modo vecchio di agire, è nuovo oggi, è di nuovo, non essere docili, ripartiamo da qui. E qui riprende Caterina, che fa queste considerazioni e che noi condividiamo. Allora, a parte il fatto che si sta parlando di e con donne e viene usato il maschile, tutti che chiedono, tutti che pongono problemi, non è che vogliamo lamentare, è solo che non possiamo fare a meno di notarlo. Quindi non stiamo lamentandoci, è che Concita dovrebbe usare qualche volta anche il femminile invece che il neutro maschile. Ma torniamo alla sostanza dello scritto. Concita afferma che non abbiamo più la capacità di mettere in comune le esperienze e tessere una trama. Inoltre, sempre secondo lei, abbiamo l'incapacità di assumerci la responsabilità di una decisione e sostanzialmente non riusciamo ad unire le forze per trovare gli strumenti per cambiare le cose. propone quindi di lanciare un appello e di non essere docili. Secondo noi c'è una differenza sostanziale tra ciò che viene riportato sulla stampa e quindi riconosciuto come autorizzato ad avere parola e ciò che invece si ritiene sia meglio che resti in silenzio, anzi sia meglio non riportare. Stiamo parlando sostanzialmente di censura, non di mancanza di parole e fatti. Quando poi si reclama l'unità di un appello sotto forma di denuncia che dovrebbe incentivare delle azioni e reazioni, è necessario che a questo appello segua poi anche una pratica. I proclami restano sterili quando non vengono seguiti da azioni. Allora, noi abbiamo una visione della politica delle donne che forse va oltre gli appelli. Per noi la politica è un modo di essere e di agire che passa attraverso obiettivi condivisi, strategie e pratiche quotidiane. È un procedere a prescindere dal riconoscimento che ci viene dato. È un continuare a parlare, rivendicare e denunciare e assumere su di sé l'autorevolezza dell'essere, nonostante il silenzio che vorrebbe negarci. La nostra storia sta nella condivisione di idee, di pensieri e di fatti, e appunto nel metterli in comune. Ed è alla luce di questa pratica politica che ci piacerebbe fare alcune domande ad una compagna che si è impegnata su questi temi da molto tempo ed in maniera radicale. Allora, questa compagna rappresenta una realtà che citavamo prima, di cui abbiamo fatto vari esempi, e che si adopera a livello nazionale e locale in questo senso. Ora, non so se vogliamo prima fare uno stacco musicale breve, se c'è, oppure partiamo subito, non mi ricordo perché... Non ce l'abbiamo, quindi puoi andare... Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. E allora andiamo. Allora, è il bello della diretta questo. È il bello della diretta. Allora, intanto diciamo chi è. Grazie per essere qui con noi. Aspetta che le passo il microfono. Questo vieni, questo è più vicino. Grazie. Allora, è Pina Nuzzo, dell'Unione Donne in Italia. Io ricordo soltanto questa cosa per dire quanto poi le donne sappiano mettersi in discussione, che un tempo questa associazione, grande associazione di donne, si chiamava UDI, Unione Donne Italiane, e che invece nel tempo si è trasformata in UDI sempre, ma Unione Donne in Italia, che significa che, ed è l'altro esempio che abbiamo fatto, che qui in Italia adesso ci sono le migranti, quindi l'incontro tra le migranti con il loro portato culturale, le loro questioni importanti, e le native, cioè quelle che abitano già questo luogo, e quindi questo incontro è stato sancito anche dalla modifica del nome, che è una declinazione dell'acronimo. Grazie Lucilla, grazie a tutte, mi fa molto piacere rivedervi, e anche grazie per questo compagno che detto da voi mi fa piacere, me lo riconosco, però solo da voi. Allora, vuoi dire già delle cose e poi passiamo alle domande, intanto se vuoi dire delle cose tu. Ma guarda, un po' vi ho ascoltato e quindi tutto il discorso che avete fatto su Concita, sulla stampa, su... E io vorrei dirvi una cosa molto così, ripensavo a quando ho cominciato, io sono nell'UDI dal 73 ma non comincio da lì, comincio dagli ultimi 10 anni che sono quelli che mi hanno visto come responsabile nazionale di questa associazione, e quindi quando abbiamo appunto cambiato la declinazione dell'acronimo, come ricordavi tu Lucilla, e abbiamo deciso che volevamo tornare ad essere visibili e riconoscibili dalle donne, ci siamo dette, perché non basta essere visibili, le donne ti devono anche riconoscere. E abbiamo avviato un percorso politico in cui abbiamo ripensato la rappresentanza, ma non è di questo che voglio parlare. Voglio ricordare che in quegli anni molti mi dicevano e dicevano: ma la stampa non parla mai di noi, la stampa non parla. E io dicevo: beh, in realtà noi non facciamo delle cose così grandi o comunque delle cose così significative, facevamo delle iniziative certo a livello locale molto interessanti, però se poi la stampa non ci vedeva, ma forse era anche una cosa, era una nostra responsabilità. Questo vi dice che io non mi sono mai lagnata di queste cose, cioè non è il mio atteggiamento. Però in questi 10 anni l'UDI ha preso delle iniziative significative che hanno avuto un eco su tutto il territorio nazionale, che le avesse fatto qualunque partitino della sinistra o anche della destra, avrebbero avuto le prime pagine e tutti i giornali e anche la stampa e anche la televisione ne avrebbe parlato. Ma bastava anche l'Azione Cattolica, Chiunque. Ma quella chiunque. È una grande potenza. Quindi allora io mi sono detta, no, non è il problema di che cosa facciamo o non facciamo, il problema è un altro, che la stampa vede quello che serve alla politica. E alla politica, tutta, destra e sinistra, non serve, non sono utili le associazioni di donne, la rappresentanza politica delle donne. Cioè, alla politica cosa serve? E anche ai media a quel punto. Arriva l'8 marzo, intervistiamo la povera disgraziata che è stata violentata. E vabbè, è pieno il mondo di donne violentate. Mai che avessero chiamato l'UDI per dire venite a raccontarci cosa fate perché le donne violentate siano aiutate e sostenute, o anche i centri antiviolenza, non dico solo l'UDI. Questo è il punto. Se non si parla delle donne, di quello che fanno, non si parla dei soggetti politici, cioè del soggetto politico donna. Si parla solo di noi come genere svantaggiato, come genere che è picchiato, come genere che è ucciso, come fatto di cronaca, ma come fatto politico no. E allora io ho anche capito che se volevo raggiungere davvero le donne e dire che cosa stavo facendo, dovevo usare altri strumenti, e quindi internet, e quindi il passaparola, e quindi il rapporto, quello proprio di strada, la politica militante. Non ce n'è un altro per raggiungere le donne. Allora, proprio riallacciandoci a quello che tu dici, cioè al portato politico delle donne, ci piacerebbe che tu ci raccontassi di questa straordinaria cosa che avete fatto. Mi sento? Mi sentite? Che cosa tragica. E magari vorremmo che tu ci raccontassi proprio di questa iniziativa del 50-50 ovunque si decida, una straordinaria raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare. Avete raggiunto 120.000 firme su tutto il territorio nazionale. Sì. E ci puoi raccontare, certo, qualcosa in merito a questo? Intanto voglio dirvi come è nata l'idea di questa campagna 50-50 ovunque si decide, che non si è conclusa. È nata dall'idea che le donne, secondo noi, erano stufe di considerarsi soggetti da tutelare. Noi volevamo rompere con l'idea delle quote. Non se ne poteva più, perché a ogni elezione, a ogni momento si sentiva dire «Ah, ma noi vi diamo il 20, e allora andiamo a contrattare il 30, se poi uno era molto bravo ti dava il 40, quelli proprio democratici di sinistra». E uno dice «Scusa, ma perché io vivo in questo mondo, siamo il 52% della popolazione italiana e devo dire che voglio questo 40%. No, noi siamo partite non da una percentuale, noi siamo partite dall'idea che andava rifondato il concetto di democrazia paritaria, quindi democrazia paritaria, e rifondare un simbolico e non darlo per percentuali, ma ripartire dalla dualità. La dualità che comprende anche la differenza delle donne, perché noi siamo differenti. Allora ci siamo dette, siccome è inutile andare a parlare con questo o quel partito, che tanto nel corso degli anni tutti hanno dimostrato di non voler mollare quelle sedioline là che ci avevano. Sì, la cosa è stata trasversale. Esatto. Ma neanche volevamo ricorrere a quella pratica politica delle relazioni tra donne, nel senso di donne che sono in Parlamento e di donne del movimento, perché nel corso degli anni ci siamo sentite anche molto un po' messe da parte, anche un po' tradite, se devo dire quello che penso fino in fondo. E quindi abbiamo deciso di partire, di prendere a nostro, come nostro strumento, quello che ci dà la Costituzione, cioè una legge di iniziativa popolare. Quindi abbiamo rischiato, abbiamo detto raccogliamo le firme, verifichiamo se quest'idea che noi abbiamo di democrazia paritaria è un'idea che può avere le gambe per andare nel mondo. E abbiamo cominciato a muoverci nelle piazze e a parlare con uomini e con donne, perché quando tu ti presenti con un'iniziativa di questo genere devi poi sostenerla, devi discutere, devi dire. E devo dire che noi abbiamo avuto un grande sostegno e riscontro dalle più giovani, dalle giovani donne, E per raggiungere quelle 120.000 firme che non immaginavamo mai che avremmo raggiunto, noi puntavamo alle 50 e ci saremmo anche, non dico accontentate, ma insomma raggiungere le 50.000 che era il minimo, anche per rispetto della storia che rappresenta Ludi, era il minimo che volevamo raggiungere. Ma l'adesione di tante donne, anche non dell'Udi, di centri, di associazioni che ci hanno sostenuto, ci ha consentito di raggiungere più di 120.000 firme anche in luoghi che uno dice il meridione. Bene, il più alto numero di firme è stato raccolto nel Salento e poi a Milano, dove l'Udi non c'era a Milano, ma donne ci hanno aiutato a raccogliere le firme. Quindi una dislocazione sul territorio che sicuramente ha giovato particolarmente a questo tipo di iniziativa. Spesso, tant'è vero che facevamo proprio questo discorso della informazione della stampa, no? Abbiamo notato che ad esempio la stampa locale si è invece molto interessata di queste iniziative che abbiamo fatto, mentre invece purtroppo la stampa nazionale di questa idea di 50-50 ha parlato pochissimo, e ne ha parlato invece in un momento in cui i partiti politici si sono impossessati impropriamente, lasciatemelo dire, di questa denominazione. C'è stato un momento nella querel politica in cui si è tirato fuori questo discorso del 50-50, è stata una specie di scippo istituzionale, direi. Sì, ma però io voglio vedere il dato positivo. L'Udi è riuscita con questa campagna a egemonizzare il dibattito. Noi abbiamo cambiato il linguaggio della politica sulla questione della rappresentanza, quindi oggi uno sta un po' attento a parlare di quote, ci pensa due volte. Quindi vuol dire che se non c'è un riconoscimento esplicito, però comunque abbiamo cambiato il linguaggio. E anche le donne, le rappresentanti, quelle elette, sanno che su questo noi abbiamo fatto una battaglia. E voglio precisare, noi non abbiamo chiesto il 50 e 50 come noi delle elette, cioè noi vogliamo che le donne possano partecipare, gareggiare alla pari. Per esempio, si fa una lista di un partito, vogliamo che quella lista venga fatta un uomo e una donna, un uomo e una donna. Saranno poi i cittadini a decidere se andranno due donne, se andranno tre uomini, cioè sarà il merito. La parità di accesso esatto. alle liste elettorali. Quindi la possibilità di avere l'accesso a una serie di cariche, del resto di Rosina, uffici. È risaputo che quando le donne hanno la possibilità di accedere in un luogo ovunque si decide, abbiamo detto, perché non è solo un problema legato al Parlamento, alle istituzioni, certo, ma anche ai consigli di amministrazione, le banche, le università, laddove ci sono dei concorsi, le donne, siccome sono preparate, li vincono. Certo, il problema è dove non ci sono i concorsi e continua il discorso della cooptazione, certo, che porta, scusatemi se torno un attimo indietro, torna alle Noemi. È vero. Cioè se noi abbiamo le Noemi è perché quella sceglie di essere Noemi, io le lascio anche questa libertà. Certo. Ma ci sono tante donne che scelgono di non essere Noemi e che vorrebbero dei concorsi e non questa forma di cooptazione che porta poi ad una rappresentazione del femminile che non corrisponde alla realtà di questo paese. Esattamente. Tra l'altro è proprio di oggi la notizia di questa parlamentare, di cui mi sfugge il nome perché è un nome impronunciabile, una parlamentare europea che si è molto lamentata del fatto che appunto nei luoghi dove si decide nella Unione Europea ci sono pochissime donne, vuoi perché appunto i maschi tendono generalmente a detenere e a passarsi fra di loro i vari poteri, ma soprattutto perché per accedere ad alcune cariche molto elevate della comunità europea bisogna prima aver fatto un passo precedente nelle nazioni di provenienza, quindi bisogna essere o ministri degli esteri, e dico ministri e non ministre, o presidenti del Consiglio, e quindi ovviamente si sa che in Europa queste cariche sono quasi sempre ricoperte da uomini, quindi, e perché appunto il discorso è a catena, quindi le donne hanno una maggiore difficoltà ad arrivare a certi livelli perché appunto c'è quel discorso di cui tu parlavi prima. Non solo, e fanno anche i regolamenti, per esempio, no? Dicono adesso decidiamo che ci vuole il 50% delle, sì, donne, e come è successo a Taranto, decidono che ci vuole, fanno il regolamento ma poi non lo rispettano. Mi togli quindi le parole di bocca, esatto. Proprio su Taranto c'è stata una sentenza che diceva appunto di azzerare il consiglio comunale. Allora cosa hanno fatto i signori uomini? Si sono tutti quanti messi in lega, mo ci vuole, e hanno dato le dimissioni dalla loro carica, e dimissioni che sono ovviamente state rifiutate, rimandate al mittente dal presidente. Quindi siamo da capo a 12. Sì, prima di passare a una seconda domanda, perché poi ci interessa, proprio ricollegandoci a quello che tu hai detto, che noi abbiamo detto, che hanno detto le donne, che è della, insomma, la querella estiva per capirci, ci interessa proprio parlare della politica delle donne là dove c'è e lo sappiamo, e quindi parlare nel concreto, no? Però mi viene da dire che come sempre, visti gli esempi che sono stati fatti adesso, no? Cioè, che una compagna tanti anni fa parlava della pratica dell'affidamento, e non è una critica, non voglio fare nessun tipo di critica, della pratica dell'affidamento come non di qualcosa di originale, perché gli uomini l'hanno inventata e la praticano da millenni, e questi sono gli esempi, cioè gli uomini si affidano tra di loro e si fanno i loro nepotismi, contronepotismi, cuginismi, chiamiamoli come vi pare, va bene? Si sostengono. Ok, e vorrei passare un attimo il microfono, perché Manuela credo che voglia fare anche lei una domanda. Dunque Pina, ci è giunta notizia dalla periferia italiana, perché la politica non si fa appunto solo a Roma, che avete portato in giro per l'Italia un'anfora contenente messaggi di donne. Su che cosa? La prima. Poi come hanno reagito sui territori? Quindi. Noi stiamo ancora portando in giro quest'anfora. Ah. E la porteremo in giro, come dici tu, fino al 21 di novembre, quando arriverà a Brescia. Il giorno doveva essere il 25, dove si chiuderà in modo istituzionale, però nomino il 21 perché poi ci voglio un attimo tornare su. Perché noi abbiamo deciso di prendere un'anfora di terracotta, neanche tanto grande, di dipingerla con i segni e i simboli che Maria Gimbutas, la famosa archeologa, attribuiva alla Dea Madre, e abbiamo detto adesso noi partiamo da Niscemi, che è un paesino sperduto della Sicilia, e risaliamo su per l'Italia attraversando tutte le regioni, tutti i paesi, tutti i comuni, per dire cosa? Che le donne dicono basta alla violenza e al femminicidio. Ora, le donne lo dicono anche in tanti altri modi, lo hanno sempre detto, c'è la manifestazione che in genere si organizza il 25 novembre, sì. Giornata internazionale, ce n'è stata una molto grande a Roma nel 2007. Però che cosa succede? Che queste grandi manifestazioni raccolgono una parte delle donne. Certo. E poi alla fine c'è anche sempre finito quel giorno, la stampa dà un racconto, fa un resoconto di questa manifestazione che non fa mai giustizia della partecipazione reale delle donne, e questo ti lascia sempre un po' l'amaro in bocca. E del, no? Lavoro che, e appunto, del lavoro che c'è stato giorno per giorno, esatto. Dietro, prima, durante e dopo, esatto. Mi verrebbe da e dire. E quindi certo. Noi abbiamo detto, e poi c'era un'altra cosa, abbiamo assistito negli ultimi tempi, almeno noi capitava di avere un omicidio quasi uno al giorno, no? Di donne assassinate da uomini e anche loro compagne. Allora tu lì dici, ma adesso che faccio? Faccio il comunicato stampa e poi questo comunicato non me lo pubblicano. Allora abbiamo detto, facciamo un evento che duri un anno in cui tutte le donne nel loro territorio, nella loro realtà, nei piccoli paesini dove sono, dicono quello che pensano della violenza, ma non hanno bisogno di raccontarla, perché tanto noi conosciamo questi episodi. Quindi, esatto, purtroppo, nell'anfora possono mettere questi bigliettini con il racconto, consegnare all'anfora questo il loro dolore e nel frattempo costruire un evento, ognuna laddove era, anche creativo, anche allegro, se posso dire, anche vitale, forte. E così è stato. E torniamo al discorso del radicamento sul territorio. Certo. Che e questo è fondamentale, credo sia la base esatto, per andare. Manuela. Ma significa anche, cioè, nel momento in cui tu ti apri al territorio, di non che devi dare poche regole, che le regole dell'UDI sia per il 50-50 che per la staffetta, perché stiamo parlando della staffetta di donne contro la violenza sulle donne. Questo aver voluto ripetere staffetta di donne contro la violenza sulle donne ha voluto dire che doveva essere chiaro che questa staffetta non doveva essere presa a pretesto per altre questioni tipo l'ordine pubblico, l'omofobia, era solo una staffetta di donne contro la violenza. Poi abbiamo chiesto l'adesione di tutte le associazioni di donne, di singole donne, dei coordinamenti femminili, dei sindacati, coordinamenti femminili, non di tutto il sindacato, e abbiamo avuto l'adesione della CGIL, coordinamenti femminili, CGIL, CISL, UIL e UGL. Non abbiamo voluto, lo abbiamo detto chiaramente, no alle adesioni di partito. Le donne di partito partecipano a titolo personale perché ci fa piacere che ci siano, ma no ai partiti. Avere questa chiarezza fin da subito è stato un rischio, è una sfida, perché poteva pure voler dire in questo mondo in cui, in questa nostra società in cui non si fa niente, in cui i partiti non si ficchino sempre, come dire, però è stato invece. Ed è una cosa straordinaria. Allora, siamo in chiusura e sì, ti vogliamo chiedere un'ultima cosa, ma brevissima, purtroppo, perché altrimenti non ce la facciamo con la trasmissione dopo. E però noi sappiamo che questo radicamento nel territorio e queste due iniziative, soprattutto la staffetta, se abbiamo capito bene, hanno portato le donne a un controllo anche del territorio, cioè a un guardarlo e quindi a un controllarlo. E questa cosa ha portato fuori un'ulteriore iniziativa agganciata e direi figlia delle altre due, sì, da qualche parte, che è la moratoria cittadina sulla pubblicità offensiva e lesiva della donna. Vuoi dire qualcosa? Sì, proprio partendo da Niscemi? Io dico due cose velocemente. Uno, che sia il 50-50 che la staffetta sono delle iniziative pubbliche, nel senso che si muovono sul territorio e portano le donne ad abitare da cittadine e quindi a muoversi nel territorio liberamente, creativamente, occupare lo spazio. Siccome lo spazio delle città è anche lo spazio nostro, noi con la moratoria, non a caso abbiamo usato questa espressione che in genere viene usata contro di noi, con la moratoria non chiediamo alle donne di entrare nel merito delle pubblicità e di operare una censura, no. Noi chiediamo alle donne di rivolgersi agli enti locali e di dire che lo spazio pubblico, che è delle donne, che è dei bambini anche, non deve essere dato per pubblicità che incitano alla violenza, che sono offensive. E quindi la moratoria ha questo senso di ritornare allo spazio pubblico, di abitarlo, come, permettetemi di dire solo velocemente questa cosa, sabato 21 novembre 2009 la staffetta si concluderà a Brescia con una manifestazione di donne. Saremo tutte in Piazza della Loggia, la famosa Piazza della Loggia, saremo a Brescia perché Brescia è la città dove è stata assassinata Ina e siamo partite da Niscemi dove fu assassinata Lorena. Ed è con piacere che dico che il primo comune che ha aderito a questa nostra iniziativa della moratoria è Niscemi, che ha appunto fatto una delibera dicendo appunto che non mette a disposizione i propri spazi. Quindi la politica delle donne può cambiare anche la politica dei comuni. Allora, grazie Pina, penso che tu voglia dire una cosa, saremo rapidissimi, veloce perché vogliamo solo dire dell'appuntamento di sabato e domenica, rapidissimamente. No, volevo appunto dire questa cosa di sabato e domenica, se me la fai leggere per benino io te la non ci vedo bene perché ho anche io un'età, comincio ad avere un'età. No. Allora vi ricordiamo, vi vogliamo dire che in in previsione delle 5 giornate lesbiche che si terranno a giugno del 2010, è convocata un'assemblea per l'11 ottobre alle 10 del mattino presso la Casa Internazionale della Donna. I temi su cui si discuterà sono identità, immaginario, relazioni e diritti, cultura e comunicazione, teoria e politica, sessualità, passioni delle lesbiche. Ho letto come... Bravissimo. Però ricordarci che la sera prima alle 22 ci sarà un concerto, mi togli il foglio? Ecco, un concerto alle 22 sempre alla Casa Internazionale delle Donne di Eli Natali e Elena Daoca, che da ora. Da ora, scusate, vabbè, speriamo da ora, scusatemi, per finanziare le 5 giornate. E quindi niente, per il resto andate pure sui vari siti, anche la Casa Internazionale delle Donne fa molte iniziative interessanti. Perfetto. Un'ultimissima cosa. Adesso manderemo la sigla, ma dopo la sigla manderemo invece un pezzo di Mercedes Sosa, la cantora popolare che purtroppo è morta nei giorni scorsi. E lei era chiamata la voce di chi non ha voce, quindi per la libertà, Mercedes Sosa, come un pacaro libre. Noi ci vediamo martedì, ci sentiamo martedì prossimo con la replica di questa trasmissione. Ciao a tutte, grazie Pina, ciao. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivo. Ciao a tutte, ciao. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo, cada vez el camino menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te autogestito da femministe e lesbiche presenta. Voglio stare sempre libero, di Dio voglio